Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Immaginate cosa sarebbe successo se ogni sito internet per essere visualizzato avesse richiesto un browser ad hoc. È chiaro che internet non avrebbe mai potuto avere il successo che ha avuto, eppure un rischio simile si corre oggi con molti dei nuovi servizi digitali dove ognuno di questi servizi ha la sua app di riferimento chiusa su se stessa. Se per esempio volessi pianificare una visita a un museo fuori porta, dovrei prima consultare l'app con gli orari di apertura. Poi, volendo raggiungerlo con i mezzi pubblici, dovrei consultare l'app del trasporto locale e magari, arrivando da fuori città, anche l'app di Trenitalia, insomma, per capire gli orari dei treni. Ecco, per evitare scenari di questo genere, che sono chiaramente subottimali, è nato E015, un ambiente digitale cooperativo che è pensato per consentire la condivisione e l'integrazione di flussi informativi che provengono da entità diverse. Attualmente questo ambiente, adesso capiremo un po' meglio, è gestito da Regione Lombardia ed è stato a suo tempo ideato e messo a punto dal CEFRIEL, che è il centro di competenza specializzato nell'innovazione digitale del Politecnico di Milano. Il progetto è stato coordinato da Maurizio Brioschi di CEFRIEL, naturalmente, che è in linea con noi. Buonasera Brioschi. Buonasera. Allora, senta, provi a raccontarci, descriverci un po' meglio che cos'è questo E015 e anche perché, diciamolo subito, è così importante nell'ottica di sviluppare i servizi cosiddetti servizi digitali legati alla Smart City. Sì, E015 è un ambiente digitale che consente di far parlare tra di loro i sistemi informatici di diversi soggetti. Ad esempio, il portale Infomobilità del Comune di Milano è stato realizzato secondo questo approccio, per cui è possibile trovare all'interno del portale informazioni sullo stato di regolarità della metropolitana che arrivano dal soggetto ATM, piuttosto che la regolarità del servizio ferroviario regionale da Trenord, piuttosto che lo stato in tempo reale dei voli negli aeroporti di Linate e Malpensa, piuttosto che la disponibilità di posti all'interno dei parcheggi di corrispondenza ATM. Tutte queste informazioni sono state rese disponibili in E015 rispettando le linee guida e gli standard tecnologici previsti dall'ecosistema. Ecco, quindi questo ecosistema in realtà è un insieme di regole praticamente che dicono: se tu vuoi buttarmi fuori dei dati e dirmi, non so, che ora partono e arrivano degli autobus, fallo seguendo queste regole, in modo che tutti quelli che aderiscono a queste regole, appunto, possono capire. Sì, il punto chiave sono le regole e le linee guida per arrivare a rendere disponibili queste informazioni per fare in modo che altri soggetti possano chiedere di utilizzarle all'interno delle proprie applicazioni in modo da dare ulteriore visibilità a questi flussi informativi. Ecco, oggi si parla molto di Smart City, si parla molto di digitalizzazione dei servizi, ma per esempio se su 8.000 comuni ognuno si fa il suo software con le sue regole, no, per gestire, che ne so, il tema dei rifiuti, poi sarà molto difficile avere una gestione al di sopra del livello comunale, no? Voi cercate di affrontare questo tipo di problemi? Esatto, perché in E015 i contenuti informativi che possono essere resi disponibili sono di molteplici contesti, non solo dei trasporti, certo, ma della cultura, dell'accoglienza, dell'ambiente, piste ciclabili, calendari di manifestazioni, spettacolo, purché siano resi disponibili e conformi con questo insieme di standard. Ecco, come si partecipa, come si aderisce a questo insieme di regole, quali sono i vincoli? Allora, per aderire a E015 è sufficiente sottoscrivere un contratto gratuito di adesione in cui sostanzialmente si indica che saranno rispettate le regole di questo tavolo digitale, sia per mettere a disposizione i propri flussi informativi, sia per chiedere l'utilizzo di flussi informativi di altri, perché nascono delle relazioni digitali di reciproco vantaggio tra chi mette a disposizione e chi è interessato a valorizzarli. Ecco, appunto, dopodiché per poter usare il flusso informativo generato da qualcun altro bisogna chiedergli il permesso. Ci deve essere un'autorizzazione, chiamiamola così. Deve essere un'autorizzazione, in alcuni casi è di default per certi flussi, certo, in altri è oggetto di validazione da parte del soggetto che mette a disposizione questo flusso, perché l'importante è che nascono relazioni digitali che connettono automaticamente i sistemi informativi di chi mette a disposizione il flusso con quello di chi fa l'applicazione. Come nasce questa idea perché possiamo parlare forse in questo momento di un giro di boa? Sì, l'iniziativa è nata in vista dell'Esposizione Universale del 2015 ed è stata promossa dalle principali associazioni di categoria italiane Confindustria, Camera di Commercio, Confcommercio, l'Asso Lombarda e l'Unione del Commercio, che traguardando il 2015 hanno ideato e studiato insieme a Cefre un sistema per facilitare lo scambio dati tra le aziende o tra il pubblico e il privato. Anche perché ricordiamo appunto che l'Expo, anche dal punto di vista proprio del sito, era una piccola Smart City, una Smart City in miniatura, quindi diciamo, era un ambiente anche di sperimentazione abbastanza ideale. Esatto, esatto. E dopo questa fase di sperimentazione, di lancio, l'iniziativa è passata in gestione alla Regione Lombardia, che alla fine di Expo ne ha preso in carico la gestione complessiva, e adesso, con delibera di giunta del maggio scorso, l'iniziativa è stata estesa fino al 2021. Quindi Regione Lombardia si preoccuperà, diciamo, di mantenere vivo questo, no, ambiente partecipativo, diciamo così, almeno fino al 2021. Grazie Maurizio Brioschi. Grazie a voi.